bello Guffo! Guffo, che ci faccio? Chi è? Chi è? Ma dove fanno i biatti? No, c'è un bugiardino che ha subito il posto l'aria giù. Ah, io mi sto guardando la partita a primo canale per la Supercoppa. Non mi piacciono a me, mi guardo quando ci sono i mondiali, se no non mi piace, però quelli quando gioca l'Italia. Sta la Supercoppa allora. Mira con la Juventus, certo. Invece bella, a me piace, però queste partite così me le guardo ugualmente. Non è che le vado a pazzo, però me la guardo. Aspetta un attimo. No, è la bolletta, me la domanda in discorso. Ah. Bello questo campo, cazzo. Bello veramente, cazzo. Da fine poco dirai chi dica Gesù Cristo. E a Debuldu, la metà ti dirà chi ha ricassato stasera. Mi sembra che in Egitto sta giocando, così è il Milan. Eia! Il Milan con la Juventus. Stanno giocando in Egitto, già l'ho visto a mezzogiorno al telegiornale. Adesso hanno permesso gli egiziani che possono andare anche le donne allo stadio e da questo mese possono guidare le macchine anche le donne. E infatti la Supercoppa per la vita umana, che infatti è pieno. Sì, era ora. E l'ho visto al campo, ha fatto vedere un sacco di donne senza il velo, c'erano, ma belle femmine a vero, ma belle proprio, proprio belle, belle, mi. Caspita, naturali, mi. Ce n'erano col velo e senza il velo, non è più obbligatorio, mi sembra, il velo. Ed erano ben in gamba. Ehi, sono tutte in gamba, qualcuna bruttina c'è, però non possono essere tutti belle belle, capito? Però sono belle, dai. Sia così, deve essere i diritti umani, deve essere senza velo, cazzo. Almeno si vede la persona, che persona è, come è, come non è, capito? È giusto che sia così, senza velo posso entrare nello stadio quando vogliono. Insomma, possono fare tutto come questi qua. Come tutto il mondo. Lo vedo, mi dà le giovani che ci rugo, vivi. Nel resto del mondo velo non ne hanno. Ma tutte cazzate quelle. Secondo me, cosa, per carità. No, ne hanno viste un sacco di donne belle, c'è appena qualche luna, però già erano carine lo stesso, brutte non le ho viste veramente. Una più bella più dell'altra, e poi è giusto perché non ce l'hanno il diritto anche le donne, okay? O sono un uomo, ne vale il diritto a tutti i rigori. La femmina va a me come se è l'uomo, a chi non è uomo, però è femmina e si deve ne ammettere, non vera femmina, il mondo non andrà da nascere, a chi figliori un uomo non ne cagano. Tu? Maria, hanno fatto le leggi così, sono già gli anni che hanno quell'usanza, per cui, però adesso il mondo sta cambiando, per cui anche loro si devono adeguare a queste cose. E così. Dai, stai cominciando, grazie. Dai, ci sentiamo, dai. Intanto io mi devo parlare un suo, papà. Va bene. Gio Maria, Graziano, mi sentite? Vittorio, sono. Passo. Vito, mi sto facendo l'aerosol. Dimmi, Mari, mi senti? Mi senti, Marino? stato un radio. Mi sto facendo l'aria ozone. Ci sentiamo dopo. Fra un quarto d'ora, là. Mi senti? Prova, ti sento. Ti sento male, non ti sento. Non ti copio. Prova a parlare, sta uscendo a tratti. Ma sta uscendo a tratti? Ma non posso passare, uno, due, tre, non ti... Prova! Lo stai uscendo, a tratti stai uscendo. Ma qualche merda, sì. Sì, stai uscendo abbastanza bene. Ehi, ti vedo, però che ti stai spostando si vede, a volte si abbassa, a volte si alza, ma non è che non stai facendo bene, è che bene la radio, solo che a volte non c'è la ricezione. Marino, mi senti? Adesso già ti sei. Prova. Non ti sento. Non ti sento. Sono al terrazzo, mi senti? Come fai, Graziano, a sentirlo se lo sento io qua? Cosa vuoi che ti dica? Oggi non lo intendo. Guarda, mi sono affacciato nella finestra. Capito. Io lo sento bene, Marina. Infatti, poco fa adesso lo sentivo, ho detto, ma chissà chi ha detto che non è una ciamba santenza. Ma va bene, perché lo sento bene. Certo, se si muove, con l'antenino di roba, se si muove, che fuori, è ovvio che c'ha alti e bassi. Ciao Gio Maria, buonasera. Ti ho sentito adesso, Mari. Sì, adesso ti sento, però sono nel terrazzo. Ehi, Asco, ma quali affari non me li hai buscati, non me li hai procurati? Ehi, ok, vado a aprire che hanno suonato. Ehi, ciao Fra, se mi senti. Ciao Billy, anche se non mi sono presentato questa sera, comunque ciao. Ciao Vito, scusa, non ti ho sentito. Oh, cioè, stavo parlando. Vito, mi senti? Eia, ti sento, grazie. Scusa se oggi non mi sono comunicato perché ero impegnato. Intanto ero impegnato, ma stavo facendo l'aerosol. Adesso stavo buttando cosa nella pattumiera qua nel terrazzo. Fatto bene, adesso non è che questi giorni così tanto perché già si sente che si sente ben male. Ehi, adesso me ne entro dentro che se no qui c'è freddo. Ehi, grazie a tutti, non si procede mai, già ci sentiamo da notte. Ehi, ok. Va bene, dai. Ciao, grazie. Ciao Pittu, a domani, ciao. Ciao.